La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. L'articolo 25 offre delle garanzie importantissime per quel che riguarda lo svolgimento del processo. Innanzitutto garantisce che si debba essere sempre giudicati da un giudice terzo ed imparziale. Ma in che senso? Il testo della Costituzione usa una formula un po' aulica, un po' antica. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Così, a prima impressione potremmo non capire, e invece è proprio la garanzia dell'imparzialità, nel senso che bisogna essere giudicati da giudici precostituiti. Quindi la garanzia della precostituzione del giudice significa che si dovrà essere sempre giudicati da un giudice che è stato scelto in base a criteri predefiniti ed oggettivi. Non è legittimo, non è possibile che si venga invece giudicati da un giudice che viene scelto dopo i fatti commessi. Per fare un esempio e per capirci, questa è la grande critica che viene mossa ai tribunali internazionali che vengono nominati dopo i fatti commessi. Un esempio lontano nella storia, il tribunale di Norimberga per i fatti della Seconda Guerra Mondiale. Non è un giudice precostituito, perché è stato un giudice creato, costituito dopo gli eventi. E quindi si teme che il giudice che venga creato e istituito dopo l'evento sia un giudice non del tutto libero ed imparziale, quasi come se la sentenza fosse già scritta. Per questa ragione, la Costituzione garantisce che il giudice sia scelto in maniera casuale, oggettiva e preventiva. Questo significa giudice naturale precostituito per legge. Ma c'è anche un'altra garanzia. La legge dispone solo per il futuro e quindi nessuno può essere punito se non in forza di legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Cosa vuol dire? Che la legge incriminatrice, la legge inquisitoria, non può essere una legge retroattiva, non può guardare al passato. Cioè, oggi non può entrare in vigore una legge che va a dire tutti coloro che nell'anno 2016 hanno portato gli occhiali sono arrestati, pagano una tassa. Perché ovviamente non potevano sapere quando portavano gli occhiali nell'anno 2016 che quel comportamento era vietato. Ecco allora che la legge dispone per l'avvenire, soprattutto la legge incriminatrice. Anche questa è una garanzia pienissima dell'oggettività del comportamento dello Stato. Per capirlo appieno, torniamo sempre con la mente agli anni 40. Quando si usciva da un regime illiberale in cui invece molto spesso le leggi punivano fatti già commessi. Ecco allora che il Costituente, anche qui per porre dei capisaldi forti nella tutela giurisdizionale, garantisce che il giudice sia precostituito, cioè scelto prima in maniera oggettiva per i fatti da giudicare, e che la legge non sia retroattiva, cioè siano punibili solo i fatti già previsti precedentemente alla loro commissione. Sono garanzie importantissime per un corretto svolgimento del processo.